Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero e cerchiamo di cominciarlo bene, nel senso che oggi cercherò di darvi dei consigli interessanti sicuramente e anche nuovi per cercare di continuare a vivere con magari un bello stile di vita, ma risparmiando, cercando di affrontare appunto questa crisi, cercando di non esagerare, di moderare il consumo, ma senza però rinunciare ai piaceri piccoli e grandi della vita, che insomma è difficile, no? I piaceri sono una cosa alla quale è difficile resistere, anzi l'unico modo per combatterli forse è proprio quella di non resistergli affatto, come diceva in qualche modo Oscar Wilde. E comunque sia, anche oggi potrei farvi avere fino a 1000 euro da spendere su librerierizzoli.it alle 11:30. infatti ci sarà il mistero in 24 minuti, la possibilità di vincere questa somma da spendere in libri sia cartacei sia elettronici, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La soluzione può essere, come sempre, qualcosa di molto conosciuto, o un personaggio, un fatto, oppure una delle notizie della settimana. Il primo indizio è questo qui. Versione italiana di una famosa canzone di Elvis Costello, usata anche come colonna sonora di un film. Questo è il primo indizio. Più indizi ascolterete e più il premio si abbasserà, ma partiremo appunto da 1000 euro. Il numero verde per prenotarvi, fatelo subito, 800 24 00 24. Pronti allora ad annotarvi anche i siti che vi consiglierò oggi per continuare, anzi cominciare alla grande quest'anno, senza rinunciare a niente ma risparmiando. Non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba. Quando si suonava questa canzone con la chitarra, una delle prime, no? Si impara perché la ritmica non è difficile. Poi c'era questa parte che veniva sempre dimenticata, non si cantava mai, finiva prima. E ho voluto cominciare con il ragazzo della Via Gluck perché, a parte che ormai tra poco in Via Gluck arriveranno i grattacieli, il nuovo skyline di Milano, perché si sta estendendo verso via Melchiorre Gioia, ma comunque così mi veniva in mente questo voglia un po' di ritornare alle origini, diciamo così, perché le cose cambiano e forse proprio perché il consumo cambia, si ritorna un po' al passato, così questa canzone in qualche modo mi ricordava questo nuovo modo di atteggiarsi. Roberto Liscia, buona domenica. Roberto, pronto? Sì, ci sono. Eccoci, buongiorno a voi. Il presidente di Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano, per parlare proprio delle abitudini che cambiano, nel senso che non vogliamo rinunciare alle cose alle quali siamo abituati, però siccome possiamo permetterci di spendere meno, siamo più attenti e quindi nascono anche nuovi modi di consumare. Da dove partiamo, Roberto? Nel senso che ci sono, per esempio, grandi iniziative mai famose come Groupon, Glamo, Groupalia e altre che forse già ci stanno raccontando come stiamo cambiando da questo punto di vista. Ma sì, credo che un dato di partenza possa essere il Natale appena concluso, nel senso che abbiamo fatto una ricerca proprio nei giorni di Natale per capire cosa stava succedendo. Ed è interessante notare che 5 milioni di italiani hanno dichiarato che prevalentemente gli acquisti di Natale li avrebbero fatti online e 1,5 milioni hanno dichiarato che li avrebbero fatti solo online. Questo sta a significare che ormai diciamo questo canale è considerato un canale interessante anche sotto profilo del comportamento, nel senso che toglie lo stress. cioè il fatto che durante Natale bisogna nella folla con la macchina andare a parcheggiare, ricercare il negozio, confrontare i prezzi, molti italiani hanno scoperto che in fondo si poteva fare la stessa cosa senza stress la sera a casa o la mattina presto durante diciamo la pausa pranzo. E la cosa interessante da questa ricerca è che le spese durante Natale sono incrementate online del 20%, malgrado che diciamo nei canali tradizionali siano diminuiti, il che significa che anche le persone che non acquistano online si affidano al figlio, al marito, all'amico, per cercare di utilizzare questo canale che dà questi grandi vantaggi. Ecco, delegano quindi. Roberto Liscia, un attimo in linea perché sono aggiornamenti sul traffico e continuiamo a parlarne. Sì. Strade in diretta. Fare attenzione a un incidente nel percorrere l'autostrada 26, l'autostrada dei trafori in direzione Gravellona Toce tra lo svincolo di Ovada e l'innesto con la diramazione Pradusa-Bettole. C'è un mezzo fermo in panne invece a Bologna sulla carreggiata verso Ancona della 14 Adriatica tra il ramo Casalecchio e l'innesto con la 13, la Bologna-Padova. Sarà una giornata di rientri al termine delle festività, le code più lunghe si accumuleranno tra pomeriggio e sera. Fermi i mezzi pesanti oggi, non potranno circolare sull'intera rete autostradale fino alle 22. Ne torniamo tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Roberto Liscia, presidente di Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano. Stiamo valutando come stiano cambiando i consumi e l'abitudine ai consumi italiani. Forse la crisi è stata una spinta ad avvicinarsi alla rete. Roberto, te lo chiedo perché noi siamo sempre stati un po' più indietro, no, rispetto al resto dell'Europa e sicuramente dietro agli Stati Uniti da questo punto di vista. Io sono un grande fan degli acquisti su internet, che già facevo quando non c'erano nemmeno le protezioni delle carte di credito. Oggi le cose sono molto cambiate. Credo che questa sia stata una spinta, o mi sbaglio? È assolutamente una spinta forte, perché siamo ancora indietro ovviamente. Solo per dare un dato, in media in Europa il 15% delle imprese vendono i loro prodotti online, in Italia solo il 5%. In Italia ci sono solo il 12% dei cittadini che comprano online, la media europea è del 42%, quindi siamo ancora indietro. Però ovviamente la crisi economica, la tensione ai prezzi, lo stress d'acquisto sta facilitando questo canale, fra l'altro utilizzando anche meccanismi nuovi, perché i vari operatori delle vendite sociali, dei social networking o dei gruppi di acquisto, alla Groupon, alla Point X, alla Let's Bonus, alla Groupalia, che sono diciamo operatori sia internazionali che italiani, hanno messo a disposizione degli italiani anche quello che l'Italia è in grado di offrire a livello locale, il piccolo negozio, il servizio locale, il massaggio, il ristorante, l'albergo, di fatto valorizzando anche il territorio e un'offerta d'acquisto locale che oggi aveva grande difficoltà a raggiungere il proprio pubblico e i propri diciamo potenziali clienti. Tra l'altro è un modo per trovare anche cose nuove, magari prima impensate, no? L'acquisto in rete permette di trovare oggetti o considerare opportunità che invece non è sempre così facile trovare passeggiando per i negozi, dove spesso si vedono un po' le stesse cose, no? Assolutamente. Quindi, la rete ha messo in evidenza un fenomeno che è stato analizzato in maniera molto approfondita, che è quello che è chiamato la coda lunga, cioè il fatto che online si possono trovare cose che magari non erano più sul mercato perché non erano più attuali, dischi di vinile piuttosto che giradischi del 1970, piuttosto che prodotti di hobbistica che sono difficili da trovare. Evidentemente questo fenomeno è chiaramente accessibile solo attraverso la rete, che non ha un problema di mettere in luce un magazzino fisico, perché il magazzino può essere addirittura infinito e può essere fra l'altro distribuito nel mondo intero. Quindi quello che l'acquirente in rete ha scoperto è il fenomeno molto interessante di poter trovare prodotti introvabili, prodotti che possono essere trovati a prezzi migliori e inferiori semplicemente per il fatto che la confrontabilità può permettere di trovare dei prodotti magari a prezzi inferiori e magari con le stesse caratteristiche. Pensate che nel settore delle assicurazioni si può risparmiare fino al 50%, nel settore dei prodotti elettrodomestici o elettronica si può risparmiare fino al 15-20%. Quindi la rete ha messo a disposizione una vetrina immensa che può consentire da un lato di risparmiare e dall'altro di trovare prodotti introvabili. Ultimo elemento non banale, ha messo a disposizione il tempo, nel senso che quello che si sta dibattendo oggi sulla liberalizzazione degli orari, sui negozi aperti in qualsiasi orario, in rete c'è da sempre. E quindi in realtà il dibattito sul negozio virtuale non esiste, perché il negozio virtuale è sempre aperto. Ecco, la domanda dei commercianti, diciamo quelli classici, sarà: e come faccio a sopravvivere io? Punto di domanda. Se ma in realtà è dimostrato anche questo, è un fenomeno interessante, nel senso che è dimostrato che colui che mette in rete i suoi prodotti aumenta le vendite anche nel punto fisico, nel punto di vendita. Offrire entrambe le possibilità. Perché bisogna offrire entrambe le possibilità. Visto che c'è un risparmio vero e proprio, quali sono le garanzie? Perché magari molti sono spaventati dal fatto di ricevere un prodotto inadeguato oppure non richiesto, non conforme a quello che si pensava di comprare, però in realtà le garanzie ci sono. Ma direi che non è per mettersi a fare confronti con gli altri canali, ma per una direttiva europea che è legge in tutti i paesi d'Europa, qualsiasi prodotto che viene acquistato online nei primi 10 giorni può essere rimandato al venditore, con l'obbligo del venditore di pagare quanto è stato pagato dal compratore. E questo è un fenomeno che ha fatto sì, ad esempio, che in Germania c'è una grande vendita di prodotti di abbigliamento, per esempio, e gli acquirenti si fanno arrivare a casa prodotti di abbigliamento vari, e poi il 50% lo rispedisce indietro, in maniera tale da provarli tranquillamente a casa e non avere lo stress di andare in negozio. Quindi questa garanzia è una garanzia molto forte, ovviamente, sul fatto che il prodotto può essere portato al venditore, ma la cosa straordinaria è che poi c'è una grande garanzia da parte degli enti pagatori, nel senso che sia le carte di credito che gli altri operatori finanziari garantiscono che se il prodotto viene disconosciuto dal compratore, l'ente finanziario garantisce il ripianamento di quanto è stato pagato e il refunding di quanto è stato cessato. Ecco, quindi possiamo farlo con serenità, diciamo così. È perché, con una certa tensione, naturalmente. Questo ovviamente, ma questo vale anche, insomma, per il negozio classico. L'attenzione bisogna averla ogni volta. Liscia, nella vostra ricerca avete fatto anche il punto su quali sono stati, quale genere di prodotti è stato preferito rispetto ad altri, oppure questa parte non c'era? No, assolutamente, diciamo che ci sono due fenomeni, il fenomeno durante l'anno e il fenomeno natalizio. Sì. Durante il fenomeno natalizio quello che ha avuto una maggior crescita sono evidentemente i prodotti di elettronica, dai televisori ai telefonini, e questa è stata una sorpresa, libri e prodotti di entertainment, quindi anche libri hanno avuto una crescita sostanziale, e i prodotti per la persona, l'abbigliamento, che si unisce anche ai prodotti per la persona, per intenderci quelli che sono venduti dai gruppi d'acquisto, quindi l'albergo piuttosto che il pacchetto turistico. Ecco, poi aprivo una finestra su come funzionano, perché magari molti ascoltatori non sanno come funzionano i gruppi d'acquisto, o comunque non hanno idea di cosa si possa fare. E questo appunto il Natale. Invece nel periodo prenatalizio, in mesi lontani, diciamo così, dal dicembre, come sono andate per esempio le vendite di prestazioni dentistiche, per esempio? Beh, quella ha avuto una crescita molto importante. Perché c'è stata anche una polemica, no? Una grande polemica, sì, dibattito ovviamente sulla qualità, sì. Questo è un fenomeno ovviamente generale, nel senso che una prestazione di servizi deve essere ovviamente unita alla qualità del servizio prestato. Sicuramente. E questo è un fatto che vale per qualsiasi prodotto e qualsiasi servizio. Ecco, però c'era attenzione da questo punto di vista, perché anche lì si guarda al risparmio, no? Si comincia, magari era una di quelle sezioni, diciamo, dove il risparmio non veniva preso in considerazione nel passato, no? Quando si parla di salute, mai risparmiare, e invece anche in questo caso si sta attenti anche quando si parla appunto di prestazioni di questo genere. E come funziona il gruppo d'acquisto? Vogliamo spiegarlo ai nostri ascoltatori? L'operatore, e in Italia ce ne sono ben 23, di cui alcuni internazionali e alcuni nazionali, internazionali come Groupon, Let's Bonus, Groupalia, nazionali come Let's Bonus, come Point X, che hanno una rete di agenti vanno sul territorio, o come Glamour, che utilizza anche il telefonino, che è molto interessante fra l'altro come meccanismo, vanno sul territorio e cercano quali sono gli operatori che sono interessati a vendere le proprie prestazioni di servizi, che può essere un ristorante, che può essere un albergo, che può essere un massaggio. A quel punto molti di questi operatori hanno normalmente dei volumi da vendere, perché un ristorante normalmente ha sempre un 30-40% di tavoli disponibili. Quindi è ben contento di mettere a sua disposizione, come è successo negli aerei low cost, una parte delle sue capacità ad un prezzo inferiore per attirare nuovi clienti o per aumentare il suo fatturato e ovviamente il suo utile. A quel punto questa offerta può essere messa a disposizione sia sul PC che sul telefonino, che sullo smartphone, grande fenomeno che sta emergendo, permettendo al cliente a livello locale di dire qual è il ristorante che in questo momento mi sta facendo un'offerta, dove sono magari in un viaggio turistico o dove sono in questo momento di domenica perché voglio andare ad un ristorante pagando un po' di meno di quanto normalmente pago. Il cliente acquista un coupon, che è praticamente un'opzione di acquisto del servizio, e con questo coupon va al punto, va al ristorante, va al massaggio e ottiene il servizio al 50% del suo prezzo, oppure compra direttamente il servizio già al 50%. Questo fatto permette da un lato al cliente di avere un'offerta locale sempre aggiornata a prezzi scontati, permette all'operatore di vendere, diciamo, le sue prestazioni incrementando i suoi volumi, e permette naturalmente all'operatore di aumentare anche i potenziali clienti, che poi scoprono una nuova offerta che diventa poi un'offerta che il cliente stesso poi nel tempo continua a consumare magari a prezzo. Chiaro, è un bel modo per farsi conoscere. Ecco, devo dire che all'inizio c'era forse un po' di diffidenza, come sempre quando le cose hanno un inizio, e poi invece il successo c'è ed è stato confermato, e quindi anche perché spesso il cliente è molto soddisfatto del prodotto che acquista, anche perché non potrebbe essere diversamente, altrimenti poi diventa controproducente per chi lo offre. E tra l'altro voglio aggiungere, sì, che noi stiamo lavorando, abbiamo fatto un bollino di qualità che si chiama sigillo Netcom, e stiamo lavorando per definire anche un certificato di qualità che garantisce il cliente anche sulla qualità dei servizi che sono erogati dai gruppi d'acquisto. Questo è interessante. Allora andate, se volete, sul sito, che è consorzionetcom.it con due M finali, quindi consorzionetcom.it, per vedere anche come cosa consiste e che forma e che colori ha questo sigillo Netcom. Grazie Roberto Liscia e buona domenica. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie al presidente appunto di Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano. Tra pochissimo vedremo di darvi qualche consiglio pratico per affrontare in modo nuovo questo 2012, risparmiando ma senza rinunciare a niente. Il riposo del guerriero. Tra l'altro vi chiedo se avete anche voi dei consigli da dare in questo senso, se avete i vostri modi per affrontare quest'anno nuovo, fateceli sapere, vi do il numero per gli sms, non l'ho ancora fatto, eccolo qui, 349-238-6666. Parliamo appunto di modi di vendere e di offrire, e c'è un'iniziativa che nasce dagli Stati Uniti e che chissà potrebbe prendere piede anche in Italia. È lo svuotamento dei garage, chiamiamolo così. Spesso lo si vede in telefilm, cioè in Desperate Housewives, spesso si vedono queste casalinghe che sono pronte a svuotare i loro garage. Ve ne parlerò tra pochissimo, perché adesso c'è l'ospite, che è Antonio Galdo. Antonio Galdo, buona domenica. Buona domenica. Giornalista di Panorama, autore di un libro, Non sprecare, e dal quale poi è nato il sito, che è nonsprecare.it. Quindi Antonio, cominciamo a non sprecare. Da dove partiamo? Perché l'argomento è molto ampio. Beh, io partirei dalla notizia di oggi sui giornali, che è in uscita in America la biografia di Michelle Obama, e questa biografia racconta quanto questa donna sia fondamentale nella vita del presidente e quindi anche nella vita di una nazione. Il primo gesto di Michelle Obama quando è arrivata alla Casa Bianca è stato questo: zappare l'orto, un gesto molto semplice che nel libro Basta Poco, che ho scritto con Einaudi, sì, pubblicato qualche settimana fa, è raccontato in tutti i suoi dettagli. Questo gesto così semplice, così piccolo, ha una grandissima forza evocativa, e la forza evocativa sta nel fatto che in America l'obesità è un male diffusissimo, è quasi una epidemia, e nel mondo ci sono 1 miliardo di obesi che si contrappongono a 1 miliardo di persone che invece soffrono la fame. Fare un orto significa recuperare una cultura dell'alimentazione sana e significa anche uno stile di vita più sobrio, ma implicitamente significa un capitalismo più giusto, più equilibrato e meno squilibrato al punto da essere sottosopra come in questo momento. Ecco, in Basta Poco, tra l'altro, tu dedichi la prima parte proprio all'uomo che ricomincia a fare, nel senso l'uomo che non compra soltanto prodotti e servizi, ma comincia anche a darsi da fare per crearsi la possibilità di ricostruire, no? Di mettere a posto, finalmente di non buttare via, ma di riparare, per esempio. Ma guarda, questa è un'altra delle grandi tendenze che è in atto in questo momento nel mondo e quindi anche in Italia. Abbiamo bisogno di crescita, sicuramente, abbiamo bisogno di lavoro, sicuramente, specie per i più giovani. Ma dove c'è il lavoro? Chiediamo solo questo, perché altrimenti raccontiamo delle frottole. Ecco, ci sono migliaia e migliaia di posti di lavoro in settori che hanno in comune questa parolina: manutenzione, che significa manutenzione delle persone. Pensate soltanto all'invecchiamento della popolazione, quindi a tutto quello che significa vivere secondo nuovi stili di vita per allungare bene la propria vita, e manutenzione delle cose. Io vivo a Roma e vedo che si stanno moltiplicando piccoli laboratori di lavoratori artigianali che, certo, non è che occupano come una fabbrica della Fiat, ma messi insieme tutti questi e riscoperta la cultura della manutenzione significa appunto crescita, lavoro, quello di cui l'Italia ha bisogno. Anche questo è raccontato nel libro Basta Poco e anche questo è raccontato tutti i giorni sul nostro sito Non Sprecare. Sì, perché appunto il sito, dicevo, nasce anche dal libro, appunto, e poi si aggiunge, anche perché internet è il punto di partenza, no, per questo nuovo stile di vita, perché è quello che ci offre la possibilità davvero di risparmiare, di capire e di far funzionare anche la comunicazione, cioè raccontare cosa succede nel mondo e intorno a noi. Beh, hai perfettamente ragione, internet è una grandissima opportunità, sai perché? Perché internet ti consente di mettere in rete tutta una serie di comportamenti, di gesti, di opportunità che appunto messe in rete diventano poi possibili, perché sennò sarebbe proprio vedremo oggi intervisterò tante persone che hanno avuto così delle idee, ma senza la rete queste idee non avrebbero mai potuto nascere. Assolutamente. Sul sito Non Sprecare, sì, raccogliamo moltissime di queste indicazioni e di queste idee. Te ne racconto un'altra che credo interessi ai nostri ascoltatori. Sì. Sempre a proposito di crescita, di quello di cui abbiamo bisogno, di occupazione, di lavoro, di nuove opportunità anche dal punto di vista industriale, la cosa che più mi ha colpito nelle offerte di prodotti di questo terribile Natale recessivo è quello che sta avvenendo nel settore degli elettrodomestici. È una rivoluzione, è una vera rivoluzione, c'è un'offerta enorme di prodotti che hanno un risparmio energetico superiore al 50%, ma voi capite cosa significa avere in casa elettrodomestici che ti consentono questo risparmio? Cioè significa tagliare i costi delle bollette energetiche del 50%. Un momento, ci può essere anche una cosa ancora più semplice: se impariamo tutti, e anche questo lo racconto nel libro Basta Poco, anche questo lo cerchiamo di diffonderlo attraverso il sito Non Sprecare, se eliminiamo lo stand by, che è uno spreco assurdo, totale, con una semplice ciabatta che si compra in un qualsiasi negozio di materiale elettrico, abbiamo tagliato la bolletta energetica della nostra casa di circa l'8%, e con questo abbiamo ammortizzato almeno la follia dei nuovi rincari che purtroppo fanno parte della recessione. E infatti di quest'anno nuovo che andiamo ad affrontare, e bisogna partire da lì, e sono proprio questi piccoli gesti quotidiani, sono quelli che devono cambiare. La puntata infatti appunto vuole raccontare questo nuovo modo di vivere la vita. Io volevo chiudere con un capitoletto di Basta Poco che si intitola I divorzi per eco-incompatibilità. Vogliamo spiegare di cosa si tratta? Ecco, questo significa semplicemente non scivolare da ossessioni ad altre ossessioni, cioè non scivolare dall'idea di sprecare con indifferenza l'acqua, che è una vergogna, l'acqua che noi sprechiamo lasciando i rubinetti aperti. Mentre ce laviamo i denti, certo. Mentre ce laviamo i denti. Per esempio. Però suggerirei a chiunque di non divorziare per i rubinetti d'acqua. Purtroppo questo succede sempre in America, che è un parametro importante per capire poi dove va il mondo. In America sta succedendo questo, che si sta moltiplicando l'attività di avvocati specializzati nei divorzi per eco-incompatibilità. Più o meno funziona così. La moglie, che è sempre più virtuosa evidentemente del marito, si lamenta perché il marito lascia il rubinetto dell'acqua aperto. Dopodiché la prima volta litigano, la seconda volta lei sbatte la porta di casa, la terza volta va dall'avvocato e chiede il divorzio. Ecco, io suggerisco, tra l'altro questi divorzi all'americana costano migliaia e migliaia di dollari. È un business. Perfettamente. Suggerisco a chiunque, prima di divorziare, di chiudere il rubinetto dell'acqua mentre ci si lava i denti. Anche se ho la vaga sensazione che sia solo un pretesto questo, però è un altro discorso ovviamente. Ma dietro questo pretesto, ripeto, per evitare qualsiasi equivoco, a volte basta veramente pochissimo, basta un po' di buon senso. Colgo l'occasione per segnalare nel tuo programma che da fine gennaio, con Non Sprecare, lanceremo un servizio proprio per allargare la diffusione di queste notizie, un servizio su tutti i telefonini, e lo faremo, un servizio informativo che si chiama Io Risparmio Non Sprecare, nel quale diffonderemo questo tipo di piccole notizie, piccoli gesti con i quali è possibile migliorare la qualità della vita, risparmiare e creare le condizioni per una nuova crescita economica sana, equilibrata, non fondata su sprechi e acquisti compulsivi di cose di cui non abbiamo bisogno, ma su acquisti di cose necessarie che ci farebbero e ci faranno migliorare la qualità della vita. Ma vedremo anche nel corso della puntata come è possibile non rinunciare nemmeno a quelle cose che consideriamo inutili, almeno per qualche giorno all'anno. Grazie ancora Antonio Galdo, io voglio ricordare il tuo 11° comandamento, quindi come dici nel sito nonsprecare.it, tra l'altro è il sito. Ciao, buona domenica, grazie ancora. Buona domenica a tutti. Allora andiamo a scovare altri modi appunto per risparmiare, tra pochissimo Gaia De Giglio, ma volevo anche segnalare questo, stanno arrivando moltissimi messaggi sui gruppi d'acquisto dove ognuno ha un'esperienza piuttosto che un'altra, e è chiaro che come prima ci raccontava il nostro ospite Roberto Liscia, bisogna sempre guardare che cosa si sta acquistando, e quindi quando vi sembra che l'offerta non sia sufficientemente trasparente, come qualche ascoltatore ci segnala, è meglio rinunciare proprio all'offerta, questo in generale, no? Quindi quando le cose sono chiare e descritte nel modo corretto va bene acquistare, se no forse meglio lasciar perdere. Gaia De Giglio, buona domenica. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, Gaia De Giglio insieme alla sua sorella Francesca hanno inventato, diciamo così, hanno avuto un'idea e hanno messo a punto un negozio, si chiama T.Riciclo. Se voi leggete le lettere tutte insieme viene fuori triciclo, che è un oggetto tipico d'uso ai bambini, e triciclo.biz è il loro sito, e la loro iniziativa è particolarmente lodevole perché gli oggetti che vengono, credo, più sprecati sono proprio quelli destinati all'infanzia, o mi sbaglio, Gaia? È vero, sì. È vero. In realtà noi abbiamo aderito a questa idea imprenditoriale che nasce da Massimiliano Monti di Adria, da sua moglie Sabina, sì. Ed è un progetto molto recente, nasce nel 2010 e noi siamo un franchising, siamo 5 punti vendita. Noi abbiamo aperto a Milano, nella zona abbastanza centrale di Corso Genova, ma ci sono altri 4 punti vendita a Treviso, che è il negozio pilota, Padova, Torino e Parabiago, e appunto l'idea è di riciclare abiti, attrezzature, giochi, libri dei bambini che comunque hanno un ciclo di vita veramente breve. Brevissimo. Rimangono... Infatti esatto. Di solito ci si rivolge agli amici, no? Se appena esatto. Vedi qualcuno che sta per avere figli, subito gli cedi quello che era tuo, salvo infatti. Poi tu averne un altro un po' di anni dopo e dire: ah, però puoi sempre riprenderti le cose a quel punto. E però funziona così, davvero il ciclo di vita di questi oggetti è veramente breve. Quindi... assolutamente, quindi sono prodotti quasi nuovi che noi riproponiamo sul mercato al 50% in meno del prezzo di partenza, quindi c'è un risparmio notevole. E le mamme che portano in conto vendita i loro prodotti comunque possono rientrare della spesa effettuata precedentemente e acquistarne di nuovi oppure riacquistare direttamente da noi, come succede molto spesso, perché comunque noi selezioniamo molto per offrire un prodotto quasi nuovo, quindi tante volte le persone che arrivano da noi pensano che sia un negozio di prodotti nuovi e poi si stupiscono dei prezzi perché comunque sono relativamente bassi e quindi c'è questa forma di riciclo che noi promuoviamo tantissimo perché vogliamo diffondere proprio la cultura del riutilizzo, perché dobbiamo imparare a consumare in modo più consapevole. Ecco, tra l'altro questo è anche un modo per non rinunciare per esempio a passeggini o carrozzine, faccio un esempio di oggetto, particolarmente costosi, no? Esatto. Perché uno può, non so, magari ha una marca in testa o ha un modello in testa che nuovo costerebbe molto, invece può permetterselo lo stesso, risparmiamo davvero il 50%, tanto esatto. Usato funziona lo stesso. Per di più, adesso con le garanzie che valgono 2 anni si rischia anche di prendere qualcosa che è ancora in garanzia. Cosa succede per chi offre i propri oggetti? Cosa sono in conto vendita? Invece funziona a punti, perché poi vedremo che ci sono anche dei modi di vendere le cose a punti, ma è un altro argomento. Voi come vi comportate da questo punto di vista? Allora, noi non facciamo lo swapping, ma teniamo gli oggetti in conto vendita. Una volta venduti rimborsiamo le mamme con il 45% del prezzo stabilito. E, voi guadagnate quindi solo il 5% alla fine? Funziona così? Il 55 che poi viene distribuito anche una parte al franchising, okay. E poi noi paghiamo anche l'IVA perché è tutto molto trasparente, perché siamo un'agenzia di affari in realtà, quindi sì. Paghiamo la transazione insomma. E inoltre le mamme possono controllare sul nostro sito internet la traccia degli oggetti venduti, quindi non c'è bisogno di chiamare ogni volta, ma possono anche risparmiare tempo controllando direttamente in internet. Inoltre abbiamo anche la vetrina online, quindi cerchiamo di fotografare tutti gli oggetti che abbiamo nel nostro negozio e li mettiamo appunto in rete con il relativo prezzo, in modo che molte volte ci chiamano direttamente in negozio e ci chiedono di lasciare da parte l'oggetto che hanno visto in internet. Perché verranno a prenderlo, è sicuramente esatto, un ottimo sistema. Esatto. Tra l'altro c'è un risparmio di tempo. Assolutamente sì, e non solo questo, c'è anche un'attenzione vostra verso le famiglie meno fortunate, perché gli oggetti che non vengono venduti, sempre che chi cede gli oggetti lo voglia ovviamente, sì. Vengono regalati a famiglie che non possono permetterseli. È vero, a noi ci è già capitato, persone magari meno fortunate, insomma vengono dati i capi sempre con l'approvazione delle mamme ovviamente, sì, certo. In beneficenza. perché comunque. Quindi, anche se, ecco, anche se lo dico proprio, se qualcuno non può permettersi qualcosa e che vede sul sito, può sempre telefonare in negozio, passare e chiedere se mai potrà averlo, e, appunto, dimostrando ovviamente di non poterselo permettere. Questo sì, a piede della stagione, ovvio. Noi con l'approvazione, appunto, diamo le cose in beneficenza, insomma, vestiti, attrezzature. Quindi, chi volesse, il sito è questo: www.triciclo.biz. Lì trovate tutte le informazioni e ovviamente anche gli indirizzi dei 5 negozi. Per ora 5, ma credo che aumenteranno nel corso del tempo. Speriamo, sono convinto di questo, sono proprio sicuro, come hai dimostrato in questi ultimi anni, perché questo tipo di iniziative sono sorte soprattutto l'anno scorso, tra il 2010 e il 2011. Grazie ancora a De Giglio, buona domenica. Grazie a voi. Gli aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo a acquistare senza sprecare, senza rinunciare e risparmiando. Il riposo del guerriero. Molti dei vostri sms stanno arrivando oggi, poi li farò leggere anche a Deborah Rosciani, perché sarebbe giusto approfondire l'argomento proprio dei gruppi d'acquisti, gli acquisti su internet, magari in salvadanaio tutti i giorni, ve lo ricordo, dalle 12 alle 13. Grazie, perché state scrivendo veramente moltissimo, e qualcuno con un po' di polemica oppure raccontando la propria esperienza, e altri invece raccontando che cosa fanno o vorrebbero fare per vivere un nuovo stile di vita, ecco, risparmiando. Sto leggendo, sono veramente molto lunghi e tanti. Grazie ancora. 349-238-6666. Vi stavo parlando di questa nuova usanza, quella di svuotare il garage. Chissà se arriverà anche in Italia. Intanto sentiamo cosa succede negli Stati Uniti. Garage sale negli Stati Uniti è sempre esistito. La domenica mattina molte famiglie tirano fuori dal garage ogni genere di paccottiglia, la mettono in bella mostra in giardino e vicini e amici arrivano e comprano per qualche dollaro in meno vecchie poltrone o nuovissimi stivali di gomma, libri appena sfogliati e CD introvabili, teiere della nonna e sciarpe da figli dei fiori. In Italia al massimo si passavano i vestiti da zia a nipote o si scambiavano tra fratelli. Poi hanno preso piede i negozietti dell'usato, dove poter fare qualche affare o addirittura lasciare in conto vendita qualche oggetto che, se mai avesse trovato l'acquirente, ci avrebbe fatto guadagnare 2 lire. Oggi, con la crisi che non accenna a passare, i mercatini settimanali o quelli delle pulci sono frequentissimi perché è molto chic. Deputate e parioline comperano maglioncini di cashmere sulle bancarelle dei mercati delle località marine più VIP già in agosto, e lo fanno anche con il gusto dell'affare, magari tenendo al braccio una inarrivabile Kelly bag. Quello che più vorremmo fare di questi tempi è non cambiare stile di vita. E allora ecco che anche da noi stanno prendendo piede negozi e servizi tutti nuovi che permettono di noleggiare, anziché comprare, beni di lusso o di riutilizzare capi e accessori poco usati, soprattutto quelli dei bambini. Ecco qui quindi, insomma, un sistema per svuotare e anche guadagnare, perché no? A Rossana, 55, che ha mandato un messaggio, le dice: sono disperata, abito in provincia di Siracusa, ho un diploma in gestione dei rifiuti, una passione per il riciclo, ma insomma non riesco a trovare lavoro in questo senso. Però quella di triciclo.biz può essere un'iniziativa, quindi aprire un negozio di questo genere anche a Siracusa sicuramente non c'è, ed è un modo indubbiamente per crearsi un lavoro che credo abbia successo, sicuramente, perché poter acquistare le cose per i propri figli appena arrivati, risparmiando e poi riguadagnando, perché è possibile riscambiare di nuovo, cioè rimettere di nuovo in vendita, è un bel sistema, anche per risparmiare da un punto di vista globale, visto che poi la produzione diventa minore e al posto di buttare, creare rifiuti, si riutilizzano le stesse cose. Irina Torgovskaya, credo che si pronunci così, buona domenica. Ciao Stefano. No, ciao. Buona domenica a tutti. Ciao Irina, tu sei ideatrice insieme a tuo marito di un sito, si chiama reuse.com, scritto reose, questa U quindi arriva da lì, reuse.com. Perché a un certo punto avete detto: ma tutte queste cose perché devo buttarle via? Non posso riciclare, non posso scambiare, questo regalo che mi hanno fatto non mi piace, cosa posso fare? Esattamente. L'idea è nata da un, diciamo, un'esigenza, un problema che avevamo in famiglia, un materasso, un oggetto che non ci serviva più, e abbiamo provato a venderlo, insomma, come fanno tutti quanti, cercando di ricavare qualcosa o comunque almeno di non buttarlo. Quindi l'abbiamo messo su eBay, abbiamo messo su seconda mano, insomma, su tutti i siti che, insomma, dove si potrebbe rivendere e riutilizzare gli oggetti che non servono più. Ma sai perché il materasso spaventa? Perché è grande, hai capito? Allora uno dice, ma sì, non so come faccio ad andarlo a prendere. Capito? Esatto, che poi tra l'altro abbiamo saputo dai dipendenti dell'ANS che è proprio un oggetto che non viene riciclato in nessun modo, quindi diventa proprio un rifiuto da tutti i punti di vista, ecco. Da tutti i punti di vista. E da lì che è nata un'idea, dicevamo, ma è possibile che non ci sia una piattaforma che ci permette, insomma, come per esempio un baratto che per forza deve far coincidere i desideri di due interlocutori allo stesso momento. E invece abbiamo pensato a una soluzione di baratto asincrono. Praticamente grazie a un'idea nostra di crediti si può vendere, invece di avere in cambio i soldi, uno ha in cambio i crediti. E con quei crediti può comprare altre cose. Esattamente. Quando li troverà. Quindi se non dovessero esserci in quel momento, aspetta il momento in cui ci saranno, o quando ne avrà bisogno. Esattamente. Quindi noi siamo partiti da un'idea, grazie a questi crediti si può velocizzare e semplificare lo scambio. Volevo precisare una cosa, i crediti attribuiti in automatico nel momento che un utente carica un annuncio, quindi non è una persona che decide il valore all'oggetto che deve avere, ma è una piattaforma che decide in automatico. Quindi no, non è, siamo più nell'ottica del mercato, no? Perché se no ci ritroviamo come noi abbiamo provato a venderlo di ricavarci dei soldi, invece non ci siamo. Ecco, la cosa interessante è che voi avete escluso tutta la parte monetizzabile, diciamo così, cioè non ci sono soldi che circolano da nessun punto di vista. Esattamente, esattamente. Praticamente all'iscrizione vengono regalati dei crediti. Poi facendo condivisione su Facebook, lasciando i propri dati, invitando amici, vengono regalati altri crediti. Quindi una persona potrebbe acquistare un oggetto senza spendere una lira. Chiaro, senza darne neanche un altro in cambio, ecco, perché ha fatto soltanto promozione, diciamo così, e quindi è un modo per essere ripagato della sua promozione. Esatto. Per esempio, però... sì, scusa, però, dimmi. Sì, però se uno, per esempio, ha venduto un oggetto e non gli interessa in quel momento, non vuole comprare niente, abbiamo dato una possibilità agli utenti di fare anche una beneficenza. Quindi abbiamo dei partner onlus, che sono le onlus che hanno a che fare con i bambini maltrattati, con le famiglie disagiate, e in questo modo le onlus possono utilizzare i crediti donati per acquistare gli oggetti sempre sul RUS per la loro attività quotidiana. E quindi un ottimo sistema, come prima dicevamo, di triciclo, per offrire anche a chi davvero non può permettersi. Un'altra cosa, Irina, per esempio, se io dovessi avere un giubbotto che non uso più, mi è stato regalato, magari un doppio non mi piace, io lo posso dare a voi, quanti crediti vale? Lo sai o non ti allora, ricordi? Allora, adesso noi abbiamo proprio una lista di categorie, categorie che io conto su, mi sembra, 800 oggetti, però a occhio chiuso così un giubbotto valerà su 50 crediti, perché è prescinde dalla marca, un oggetto che comunque tu l'hai già, diciamo, l'hai tolto il valore, l'hai già certo. Lasciato a prendere. Ecco, con quei 50 crediti io cosa posso avere in cambio? Per esempio potresti avere un cellulare. Ah, ecco, quindi vedi, una cosa completamente diversa, però che magari esatto, può interessarmi di più. Serve in questo momento. Ma tra l'altro, quando abbiamo lanciato il progetto, sì. Noi pensavamo che la gente comunque avrebbero messo le cose un po' vecchie, no? Un po'. Invece no. Invece no, la cosa che ci ha proprio stupito, le persone mettono le cose bellissime, ma parliamo di BlackBerry, parliamo di proprio di tu dici di tecnologia di ultima generazione, ecco, assolutamente. Non... Ah, anche un'altra cosa, i libri. Sì. I libri che poi tradotto in euro hanno un valore, per esempio, io vendo un libro che non mi serve più, l'ho già letto, lo do a 10 euro, un altro utente che lo acquista con 10 crediti. Un altro utente che lo acquista con 10 crediti che equivale a 2 euro e mezzo. Quindi per dirti che il valore in euro non è più importante. No, ma certo, cambia proprio la mentalità, anche l'approccio agli oggetti, e diventa proprio il vero baratto. E la cosa interessante è che se tu non hai un oggetto che ti interessa subito, comunque hai un credito che puoi utilizzare quando vorrai e quando troverai qualcosa che ti potrà servire. Oppure, come ha detto Irina prima, potrete anche dare il vostro oggetto in beneficenza. È una bellissima iniziativa che nasce veramente da un materasso, come potete vedere nel video che è presente sul sito. Io ti ringrazio, ringrazio tuo marito per quest'idea e buona domenica. Grazie Irina. Grazie a voi, grazie mille. Ciao, so che funzionerà e sta funzionando molto bene, è nato anche questo da pochissimo. Vi ricordo ancora il sito www.reuse.com, scritto reuse.com. Il riposo del guerriero. È 11 e quasi 5 minuti, riposo del guerriero, che oggi si occupa del nuovo anno, del 2012, con un nuovo stile di vita, uno stile di vita dove si bada a risparmiare senza rinunciare però anche al lusso e anche a spostarsi, per esempio, perché no? Insomma, i viaggi costano, ma c'è la possibilità di spendere molto meno e magari dividere le spese. Daniele Nuzzo, buona domenica. Salve, un saluto a tutti. Allora, non so se Daniele è stato a Cuba, ma là esistono i gialli, si chiamano così, e ne avevo già parlato, sono i pensionati che stanno in punti molto strategici delle strade, fermano le auto dei cubani chiedendo tu dove stai andando. La risposta del conducente è precisa e a quel punto, se c'è qualcun altro che deve andare nello stesso posto, ti caricano, diciamo così, automaticamente, obbligatoriamente, altre persone che devono raggiungere la stessa destinazione. È un sistema che io ho apprezzato molto, semplicemente perché lo trovo davvero un bel modo per risparmiare. In fondo, visto che l'auto così può portare fino a 4 persone, perché usarla da una persona soltanto? Punto di domanda. E così è nata quest'idea di Daniele, che è roadsharing.com. Dico bene, Daniele? Funziona sì, assolutamente. Così, ecco. Nel 2008 abbiamo lanciato questa piattaforma. Come sempre, le cose che funzionano nascono da un'esigenza personale, cioè qualcosa che uno ha sperimentato. Esatto, per forza. Io dovevo spostarmi in Germania spesso, viaggiare con una macchina da solo per 1000 chilometri era molto costoso, e condividendo il viaggio ho visto che era molto semplice risparmiare. Oggi, considerate, il 78% delle persone viaggiano da sole e con una spesa annua media di 2500 euro. Ora, sono soldi che posso usare in modo molto più intelligente. E l'idea è stata quella appunto di mettere in contatto chi offre e chi cerca passaggi e usare nel modo migliore quello che abbiamo già, cioè le macchine, solo riempiendole di più e quindi facendole circolare meno. E dividendo i costi alla fine. Assolutamente, no? Assolutamente. Noi abbiamo calcolato un risparmio, abbiamo appunto il costo medio annuale di spesa che le persone hanno da soli sono 2500 all'anno, quindi una cifra molto alta. Su un viaggio come Milano-Roma, che in auto da soli mi costerebbe 90 euro, adesso riesco a viaggiare con Rochelle con 30-40 euro. Soprattutto se ho la macchina, io posso anche portare 3 persone. Ecco, noi tra l'altro, sai, noi italiani su queste cose siamo sempre, ma chissà chi ti capita, chissà cosa succede, eh? Quindi come hai fatto, come ha funzionato, insomma, i primi che si sono fidati, chissà chi trovo, non lo so quali sono i pensieri che possono venire in mente a qualcuno che decide di utilizzare questo sistema. Assolutamente, il vantaggio magari rispetto all'autostop tradizionale è che il carpooling permette di pianificare il viaggio. Quindi io tramite internet metto un annuncio di uno spostamento, magari devo fare Firenze-Parigi e ho bisogno della macchina perché vado a studiare o mi sposto per lavoro, però ho tutto il tempo di mettere l'annuncio, contattare le persone che verranno in viaggio con me ed essere quindi contattato, conoscersi. Oggi le persone, i nostri utenti si contattano via Skype, si incontrano quando sono pendolari, si incontrano magari al bar vicino all'ufficio, nella zona dove andranno tutti i giorni a lavorare insieme e si conoscono, quindi c'è molte possibilità di contattarsi prima. E poi la piattaforma ha dei sistemi di sicurezza, quindi traccia tutte quelle che sono le comunicazioni, c'è un sistema di feedback, sono gli utenti la vera sicurezza. Come sempre loro, in queste cose, ecco, che è la massa che gestisce, apparente, certo. Si autoregolamenta. E poi, come diciamo spesso, le persone si comportano molto meglio di cui uno possa pensare. Abbiamo visto che noi abbiamo superato i 46.000 utenti iscritti. 46.000? Scusa, perché sei... Sì, 46.000, sì. 46.000 utenti iscritti, e i feedback negativi sono stati nell'ordine delle decine, ma anche il tipo di negatività è particolare, era del tipo è arrivato in ritardo, la musica non mi piaceva, cioè non c'è mai stata una segnalazione da considerarsi importante, ecco, critica, sì, sono piccole cose, insomma. Sì, io poi dico sempre che chi guida può decidere la musica che vuole, che chi guida ha il potere assoluto, come sull'aereo, no? Perché è giusto. Senti, Daniele, tu ti aspettavi un successo così? Io venivo appunto da un'esperienza di uso personale già in Germania, dove la piattaforma è molto diffusa, sì, anche in Francia. Quindi dicevo, ok, arriviamo dopo su certe cose, ma la necessità sono le stesse. Quindi se prima è un discorso magari di sostenibilità, ecologia, oggi negli ultimi anni l'aspetto economico ha convinto anche indubbiamente, gli indubbiamente, sì. Ha spostato una massa di utenti che prima poteva avere delle remore. La cosa bella è che sono loro i nostri sponsor, nel momento che lo fanno coinvolgono i loro amici perché vedano che si viaggia funziona. Bene, si risparmia. Sì, funziona, è semplice. E questo vale anche non solo per spostamenti all'interno dell'Italia, ma anche all'estero, no? Cioè, assolutamente. Se uno vuole spostarsi da qualche altra parte. E lì i risparmi sono altissimi, perché comunque le tratte estive, quindi dall'Italia alla Spagna, alla Francia, si parla di centinaia di euro risparmiati. Ad agosto avevamo una media di risparmio di 250-300 euro a viaggio. Perché comunque tutti i voli low cost di oggi non sono low cost appena mi porto una valigia. In macchina invece ho comunque un portabagagli che non mi costa niente. Quindi diventa immediato il risparmio. Ecco, quindi davvero un altro modo per non cambiare lo stile di vita, anche perché magari e senza magari vi ritrovate su un'auto migliore della vostra, più comoda, più confortevole, senza averla dovuta comprare, no? Quindi questo è interessante. Sì, assolutamente. E poi in un viaggio anche più sicuro. Viaggiare insieme è dimostrato. Sicuramente. Da noi, ma dalle statistiche c'è molto meno incidenti perché le persone sono più attente. Chiacchierano e quindi sono più attente. E poi è vero, tu avendo la responsabilità come autista di avere dei passeggeri, ovviamente Sei più attento, è un'altra considerazione interessante. Daniele Nuzzo, bravo per aver dato anche all'Italia questa possibilità. Ricordo il sito che è roadsharing.com e poi voi andate nella sezione italiana perché il sito esiste in 5 lingue diverse. Bravo e complimenti, buon anno, grazie Daniele. Grazie a voi. Ciao, andiamo avanti. Io vi ho detto che possiamo cambiare in qualche modo il nostro stile di vita senza però rinunciare al lusso, perché anche quello può appartenerci magari per una sera soltanto, perché dobbiamo presenziare a una cena importante o perché ci va così in quel momento. E così nasce Rent Time. Mimma Formenti, buona domenica. Buona domenica. Ciao Mimma, tu hai coordinato proprio questo progetto, si chiama Rent Time e in questo caso parliamo di prodotti di lusso, cose delle quali potremmo anche fare a meno, ma insomma, chi è che vuol fare a meno del lusso ogni tanto nella vita? Nessuno. Ma credo nessuno comunque. Allora, non potendosi permettere magari una bella borsa o un accessorio particolare, è possibile fare che cosa? È possibile affittarlo su Rent Time, un'idea che è nata da me e da una serie di amiche imprenditrici, un nuovo concetto di lifestyle, un po' imposto dalla crisi economica, se vogliamo, per cui mentre la crisi ci limita e ci toglie, con Rent Time volevamo pensare di non smettere di sognare e quindi di rinunciare ai propri desideri legati allo stile e all'estetica. Quindi con Rent Time un lusso che è accessibile a tutti, sempre in una modalità nuova e se vogliamo anche divertente, perché il fatto di poterci cambiare gli accessori o scegliere i gioielli piuttosto che gli abiti sempre comunque senza accollarci il costo dell'acquisto, direi che è un'ottima scelta. Ecco, bisogna uscire un po' da quella mentalità che abbiamo noi italiani, tipica del possesso, no? Esatto. Perché anche il car sharing, del quale parlavamo prima, il problema è che l'auto deve essere mia, no? Però in realtà non dobbiamo uscire un po' da questa logica, che è una logica un po' più internazionale, cioè nel senso che insomma, gli europei in generale, per esempio, sono più bravi da questo punto di vista e sanno benissimo rinunciare, però si prestano più facilmente le cose, per loro è normale. Esatto. E quindi è un po' un modo, cioè io non è mia la borsa, faccio un esempio, però per quella sera è mia invece. Esattamente. I prezzi beh, chiaramente sono decisamente diversi dall'acquisto, perché parliamo comunque di firme importanti, no? Esattamente. Che c'è comunque una legge imposta che non possono essere superiori al 5% del prezzo di acquisto reale della borsa, per cui questa è una, è un'imposizione della legge. Ecco, Mimma, ma voi cosa avete fatto? Avete acquistato dei, dei prodotti, oppure nasce anche tra di voi per esempio lo scambio, o tra di voi nasce la possibilità di metterli a disposizione? Come funziona? Metterli a disposizione. La maggior parte di noi aveva queste borse di Griff ormai note. Sì. Anche vintage, borse che noi definiamo gioiello, e insieme abbiamo deciso, magari borse utilizzate anche una sola volta, perché in genere succede così, chiaro. Esatto. Questo è lo famoso spreco, esatto, sì. Il famoso spreco e il pensare proprio, aprire la nostra mente pensando a una vita in affitto, quindi a un possesso transitorio anche delle cose, certo, renderle disponibili su questo sito, dando tra virgolette anche una mano a una solidarietà, per cui si crea anche una certa generosità, perché parte del ricavato va poi in generosità. Ecco, questo tra l'altro succede, abbiamo visto che accade in tutti i siti del quale abbiamo parlato, parlato oggi. Mimma, ci fai un elenco, un esempio di oggetti che si possono affittare sia per donne sia per uomini? Sì, esatto, abbiamo sia un mondo uomo che donna. L'affitto va dalla villa, va dall'abito al gioiello, piuttosto che una cosa in questo periodo molto richiesta, la possibilità di avere a casa propria uno chef che possa cucinare per te oppure per i tuoi amici. Ecco, tutto quindi, rigorosamente a noleggio, quindi non sarà tutto, vostro per sempre, però almeno per quell'occasione vi concedete un lusso che altrimenti sarebbe impossibile concedersi, quindi è un bel sistema per affrontare la crisi del nuovo anno senza, come dicevo all'inizio della puntata, rinunciare al lusso. Brava Mimma, a te e alle tue amiche. Grazie. Ovviamente che avete grazie messo in piedi Rentime, che è nato da pochissimo fra l'altro, sì, e quindi a settembre, vedremo esatto come andrà nel corso del tempo, ma io prevedo per queste iniziative grande successo. Buona domenica Mimma. Speriamo. Grazie mille, arrivederci. Vi ricordo il sito www.rent-time.it, il riposo del guerriero. Visto che abbiamo parlato del nuovo stile di vita, così legato proprio al risparmio da tutti i punti di vista, e grazie anche al fatto che molti ascoltatori dicono da questo punto di vista sono anche le amministrazioni che non sono attente, vediamo invece di capire come le città si stanno comportando per aiutarci a risparmiare senza rinunciare. Maurizio Melis, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica anche a te. Allora, parliamo di un programma che inizierà domani alle 21 su Radio 24, sì, ovviamente lunedì al venerdì, e sarà Smart City, così si e intitola. Sarà Smart City, sì. Insomma, diciamo gli ascoltatori di Radio 24 che a quell'ora magari insomma sono in macchina e quindi ascoltano la radio e ci ascoltano, conoscono Mr. Kilowatt, che era questa pillola che quotidiana sull'efficienza energetica, sulle rinnovabili e quant'altro. In due anni ci è venuta voglia anche di parlare di tutta una serie di altre cose, no? Nel senso che in fondo periodo come questo, in cui tra l'altro insomma siamo tutti afflitti dallo spread e quant'altro, in realtà chi fa il nostro mestiere si imbatte in tutti questi problemi, ma anche in un sacco di progetti interessanti che ci sono. E questo delle Smart City è un progetto anche europeo, tra l'altro tante amministrazioni oggi hanno pochi soldi in tasca, ma da lì arriveranno un bel po' di soldi, parliamo di decine di miliardi nei prossimi anni, che se si è capaci di intercettare insomma possono anche fare girare un po' di soldi in più in un periodo come questo. E cosa vuol dire Smart City? Insomma, vabbè, si è dibattuto in tutti i modi sul significato di questo termine, ma insomma vuol dire fare delle città che sono sicuramente sostenibili dal punto di vista ambientale, che sono efficienti dal punto di vista energetico, ma che sono anche città vivibili, per esempio, che sono capaci di rispondere a tutte le sfide. Una pubblica amministrazione che non ti costringe a fare code, per esempio, può essere una cosa molto intelligente. Un modo diverso di usare non so, le superfici. Parleremo in una delle prossime puntate di una serie di edifici pubblici che sono stati concepiti in modo tale che la loro superficie superiore, cioè il tetto, sia anche un parco però di giorno. A New York hanno preso una vecchia sopraelevata, ci hanno fatto un parco lungo 1,5 miglia e largo pochi metri, in realtà, che attraversa tutta la città, è una specie di taglio verde. Ecco, insomma, ci sono tanti modi di come dire, fare evolvere la città nella quale viviamo, che forse tanto intelligente oggi non è. Esatto, e speriamo poi di vederle anche nelle città italiane, ma parleremo anche di, parlerete anche di tante città italiane, sì, lo so che l'elenco è lungo, che tutti vorrebbero vedere queste cose subito, no? Invece ci vuole del tempo ed è già interessante che se ne cominci a parlare. Perché trasformare una città è una sfida che insomma assolutamente non si vince in pochi giorni. È lungo, però già il fatto di parlarne porta sulla buona strada. Grazie Maurizio Melis, a domani. Ciao, quindi con una te. Puntata di Smart City alle 21. Ciao, buona domenica. E a questo punto cerchiamo anche di mantenerci più sani e più belli, come recita anche una trasmissione, ma lo facciamo stando magari a casa davanti al nostro televisore, facendo i piegamenti sul pavimento, ma seguendo rigorosamente un personal trainer che avrà un programma destinato proprio a voi. Questo è il videogioco del quale sto per parlarvi. Video game. La palestra virtuale per allenarsi sul serio è tornata ancora più efficace e completa di prima. Benvenuti nel mondo di Your Shape Fitness Evolved 2012. Ciao, questo è Your Shape Fitness Evolved 2012. Sei pronto per bruciare calorie e raggiungere i tuoi obiettivi? Sei venuto nel posto giusto. Your Shape Fitness Evolved 2012 è stato sviluppato ovviamente con la consulenza di alcuni fra i migliori e più accreditati esperti di fitness e personal trainer. Ma a rendere davvero l'esperienza unica nel suo genere è la tecnologia che è stata applicata. Grazie infatti a Kinect per Xbox 360 è possibile effettuare una scansione biometrica di 50.000 punti del corpo tramite la telecamera 3D incorporata. Per vivere l'esperienza della palestra basta quindi accendere la console e il televisore e iniziare ad allenarsi con personal trainer competenti e assolutamente inflessibili, seguendo un piano di allenamento personalizzato che porterà a risultati concreti ed evidenti. Inizieremo con una scansione del tuo corpo per poter registrare i tuoi movimenti durante il gioco. Puoi rilassarti? Non fa male. Il gioco offre una squadra di personal trainer dedicati e sempre a disposizione. 90 ore di allenamenti completi aggiornati per le zone più critiche del corpo, come cosce, addominali e glutei, oltre a un'ampia scelta di attività differenti, fra cui la cardio box, il salto della corda o la danza. Benvenuto a Spaccamuro. Se hai voglia di combattere, sei nel posto giusto. Dai con quel pugno! Pugno incrociato. La cosa più interessante che caratterizza questa nuova versione 2012 è la sofisticata tecnologia di rilevamento dei movimenti, che rende davvero possibile intensificare gli allenamenti a terra, offrendo quindi un feedback che non si limiterà solo a segnalare gli errori, ma che indicherà anche il grado di correttezza di ogni singola azione. E infine, per mantenere alta la motivazione e verificare empiricamente l'efficacia degli esercizi svolti, al termine di ogni sessione è possibile verificare le calorie perse durante l'allenamento e aggiornare quindi le proprie statistiche, confrontando poi i risultati conseguiti con quelli dei propri amici o degli utenti di tutto il mondo. Vediamo com'è andata. Stai andando bene? Adesso aumentiamo il punteggio. Nuovo record! Se poi volete fare le cose sul serio, potete prefiggervi degli obiettivi, che possono variare dalla perdita di massa grassa alla tonificazione dei muscoli, alla resistenza e potenza. E in base alla vostra attività sportiva, compresa quella di pantofolai, e alla vostra corporatura, il programma elaborerà una serie di esercizi da completare in diverse settimane perché possiate raggiungere il vostro traguardo. Per aiutarci a consigliarti esercizi e attività personalizzate, rispondi a qualche domanda sui tuoi obiettivi e su come vuoi metterti alla prova. Disponibile solo per Xbox 360 con Kinect, Your Shape Fitness Edition 2012 è davvero un ottimo gioco per aiutarci a restare in forma seriamente, ma in modo divertente. Game over. Ecco, prima di rimetterci in forma, perdiamola un po' questa forma, magari con la buona tavola, perché no? Formaggio Montasio, il formaggio DOP a 4 stagionature. Vi presenta il gastronauta. Diamo sempre tempo poi di recuperare, eh? Prima meglio godercela. No, Davide Paolini, ciao, buona domenica. Ma io credo comunque che si mangi, che se uno mangia con la testa e non con la pancia. Ah sì, certo. Questi pericoli. No. Cioè, perché se uno, no, ma se è un, diciamo che è un luogo comune, tutti pensano sì, che mangiare cose goduriose, gustose. Poi alla fine, certo, chi esagera, chi si mangia mezzo chilo di pane o chi ogni giorno, non lo so, magari mangia tre volte al giorno. Questo vale per tutto, la generazione non è mai buona. Quindi. Sì, la pasta. Però sì, certo, che sicuramente mangiare bisogna stare attenti, poi magari ricorrere anche sicuramente a esercizi e ginnastica. Diciamo che il movimento fisico è strettamente collegato al mangiare, quindi uno non si pensa di dimagrire non mangiando, ci vuole anche il movimento fisico, quindi ci vogliono tutte e due le cose, una sana alimentazione con il movimento fisico. Ma io credo che ognuno di noi possa farsi una sana alimentazione senza andare dal nutrizionista o da medici particolari, ovviamente se non ha malattie particolari, questo è evidente, se è sano. E invece molti pensano assolutamente che questo non sia possibile, io non credo, e tra l'altro credo anche un'altra cosa, che chi sta tutto il giorno con le tabelle, non sto parlando quelle del movimento fisico, ma quelle del cibo, sicuramente alla fine finisce per avere dei problemi, perché non può stare al controllo 100% delle calorie e di tutti, quanto fare tutti i giorni i calcoli. Se uno sta lì con la penna... Certo, diventa un lavoro poi, altro che... Certo. Diventa un lavoro, ma non è più un piacere, invece deve essere un piacere. Poi qualche trasgressione settimanale si può sempre fare. Assolutamente sì. Senti Davide, ormai andiamo in questo 2012 che si diceva vedrà la qualità, no? Come elemento determinante dei posti dove andiamo a mangiare fuori. Ma io credo che la qualità sia al primo posto, l'attenzione da questo punto di vista. Ma io credo che la qualità nel 2012 sia costretta. Sia costretta dalle condizioni economiche. Non ci siamo arrivati per un percorso ragionevole o secondo me costruito. Alla semplicità in cucina, alla semplicità nel mangiare e alla qualità forse ci siamo arrivati perché siamo costretti anche dalle condizioni che abbiamo attorno a noi, e credo che sempre di più lo saremo nel 2012, quindi io credo che la qualità ci stiamo arrivando per un percorso obbligatorio e non volontario. Però questo ci può far soltanto bene, no? A tutti i punti di vista, sì. Per cui meno male che stiamo arrivando a questo, grazie al cielo, ecco, quindi... Sì, no, io stamattina sul Sole ho scritto un articolo andando a riscoprire quelli che sono i libri che sono stati pubblicati durante la guerra, Le ricette della fame ad altro, sì. E l'ho fatto ovviamente in maniera provocatoria, però guarda che scartabellando questi volumi che io così ho ritrovato, uno in una bancherella, uno me lo sono comprato e un altro che è uscito addirittura in Grecia qualche mese fa, che è intitolato Le ricette delle fame, ho trovato dei consigli davvero straordinari per fare una buona cucina, un'ottima cucina. Quindi come vedi la costrizione porta alla semplicità e porta anche magari a risparmiare. Ecco, a proposito di opinioni e pensieri, io lo faccio, invito gli ascoltatori a votarti, visto che ci stanno ascoltando, sul sito italiatavola.net. C'è un sondaggio che riguarda tre categorie, la prima è quella dei cuochi, la seconda è quella dei sommelier e poi c'è un'altra categoria che è quella che ci riguarda in questo momento, e si tratta di quelli che vengono definiti opinion leader, e siccome tu sei fra i papabili, quindi è possibile votarti, invitiamo gli ascoltatori a farlo, ovviamente. Io ti ringrazio. Ecco, grazie. Adesso non dico poi se lo farete, anzi dovete farlo comunque sia, votate chi volete, questo è ovvio. Io tifo per Davide Paolini personalmente, poi voi potete votare chi volete e così vedete a che punto è Davide. Non diciamo niente, Davide, però una cosa la voglio dire, e devo ammettere che mi fa molto piacere. I primi in classifica, o comunque in classifica, sono avanti i radiofonici rispetto ai televisivi, e questo mi fa molto piacere. Bene, fa piacere a tutta la categoria dei radiofonici. Esattamente, e quindi chissà che il 2012 non sia l'anno proprio di questo straordinario mezzo. Grazie Davide Paolini. Grazie a te. Ciao, grazie, buona domenica. Ciao. italiatavola.net se volete votare. Il riposo del guerriero. Siamo quasi pronti per il mistero in 24 minuti. Volevo leggere un messaggio, conclusione dell'argomento di oggi, Sandra da Roma che scrive: come mai non separato dai mercatini dell'usato? Perché i mercatini dell'usato sono un sistema solito, conosciuto, che c'è da molti anni. Invece volevo offrire una panoramica a nuovi sistemi, ovviamente legati alla rete, e che offrono anche nuove opportunità per chi non abita, ad esempio, in grandi città, appunto come Roma, Bologna, Milano, eccetera. La rete invece offre questa opportunità anche a chi abita in paesi distanti magari da questa città, e basta una connessione a internet per godere dei benefici degli scambi. Ecco perché non ho parlato dei mercatini dell'usato. Ma adesso siamo pronti col nostro cronometro. Un mistero in 24 minuti. Fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Come sempre la risposta può essere una persona o qualcosa di particolarmente famoso, o uno degli articoli, insomma delle notizie, una delle notizie della settimana. Il numero per prenotarvi 800 24 00 24. Partiamo da 1000 euro e dal primo indizio. Un gesto semplice che esattamente come... Credo che sia una delle canzoni più tradotte in assoluto. È un vecchio successo di Charles Aznavour, e poi è stato riproposto da Elvis Costello nel 99 per Notting Hill, era la colonna sonora, e questa invece è la versione di Laura Pausini, intitolata appunto Lei. Il titolo originale della canzone era She, lo ricordo per gli ascoltatori che magari così ascoltando dicono: ma ero già sentito questo pezzo. Raffaele da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ciao Raffaele, conoscevi questa canzone? Sì, magari sì, non sì, la versione sì, italiana, sì, sì, certo, ecco. Certo. Però, insomma, quella in inglese, sì, o in francese. Allora, Raffaele, che cosa vogliamo fare? Abbiamo 1000 euro qua sul tavolo per te. Vuoi provare oppure vuoi già un secondo indizio e scendere a 500 euro? No. La prima cosa che mi è venuta in mente della settimana è quella quella notizia che è apparsa su, non ricordo su quale. Sì. Il programma, giornale, però sì. Ecco, mi è rimasta impressa il fatto che su Facebook si è apparso il fatto che si litiga molto e quindi ci sono separazioni e per colpa di Facebook. Insomma, l'oggetto della discordia è Facebook. Guarda, ho amici che hanno dovuto chiuderlo perché altrimenti bastonati dalle mogli, quindi succede, va. Ovviamente. Di conseguenza, fin di Facebook. Ci sono separazioni, certo. In modo particolare in Inghilterra sono aumentati i divorzi, insomma. E io dico sempre: ma state attenti a quello che scrivete, voglio dire. Però, vabbè. Raffaele, sempre come si usano le cose, il danno arriva da lì e non certo dalla piattaforma, che è molto interessante. Comunque, la tua risposta è quella. Grazie Raffaele, buona domenica. Grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Come sapete, Raffaele avrebbe potuto anche dare la risposta giusta, ma lo scopriremo soltanto al 24esimo minuto. Sarebbero 1000 euro in quel caso. Carla da Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ciao Carla, tu sei su Facebook, appari in vetrina anche tu o no? Non sei iscritta. No, Facebook non mi metto in vetrina. No, vetrina nel senso la vetrina di Facebook, in questo senso volevo dire. Ho capito. Non sei iscritta, no, niente, zero. Allora, sento uno stranissimo rimbombo nelle orecchie, un eco. Ma la radio ce l'hai spenta, vero? Certo, okay. Sento la radio, non ho viva voce, non ho niente, nulla. Però mi Io senti con l'eco. Ho pensato, sì? Per collegarmi a questa canzone, la battaglia di Aznavour proprio per ottenere ragione e ottenere giustizia per l'eccidio armeno. Brava Carla, nel senso che è una bella risposta, non posso dire altro. Grazie Carla, ciao, buona domenica. Grazie. A te. Grazie. Matteo da Foggia. Pronto? Ciao Matteo, buona domenica, ciao, buon anno. Buongiorno. Senta, volevo dire. Guarda che io volevo ricordare. Carla Bruni. Volevi dire Carla Bruni, Carla così. Bruni, per... La moglie di Sarkozy, sì. No, perché è stata accusata di aver tenuto per sé dei soldi, no, di un'associazione. Sì, e ne ha presi una parte, cioè li ha spostati, non è che li abbia presi, li ha spostati, sì, ecco, su un'altra associazione. Va bene, questo è quello che hanno scritto, vedremo. Grazie Matteo, buona domenica. Ciao, ciao. Vi ricordo il numero 800 24 00 24. Voglio ricordare anche gli ascoltatori, perché alcuni sono nuovi e quindi non conoscono come funziona il meccanismo del mistero 24 minuti. Voi avete la possibilità sia di dare una risposta e quindi cercare di prendere il premio che è a disposizione in quel momento, sia di ascoltare un altro indizio che vi aiuta, vi dovrebbe aiutare a risolvere il mistero. In quel caso però, ascoltando il nuovo indizio, il premio si dimezza o comunque si abbassa. C'è Marina da Genova. Ciao Marina, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Eccoci Marina. Voce, ma sono raffreddatissima. Guarda, non me ne sono neanche accorto, ecco, quindi potevi andare avanti tranquilla. Allora, okay. Marina, che cosa vuoi fare? Ascoltare io un indizio? In mente anche il nome, tu. Però sì? Quasi quasi provo con un altro indizio, dai. Ecco, dai, se anche andiamo a 500 euro. Ma sì. Sono sempre male. 500 euro, male. Non è male, brava. Sì. Ecco il secondo indizio. Bell'Italia descritta da Concato per il secondo indizio. Marina, siamo a 500 euro. Ho cambiato completamente idea. Vedi? L'indizio serve. Vuol dire io che... Provo sì, che con cosa? Il blitz di Cortina. Il blitz della finanza a Cortina. Grazie Marina. Ciao, buona domenica. Ciao, anche grazie. Marina, ciao. Potrebbe essere la risposta giusta questa, ma lo si scoprirà soltanto al 24esimo minuto. Sol da Milano. Sì, buongiorno. Ciao Sol. Buongiorno. Mi piace, dovrei intonare anche la nota ovviamente per pronunciare meglio il tuo nome, ma lascio sì, perdere. No, come ecco. Sol in spagnolo. Immagino, però anche Sol, però adesso non la intono. Allora, che cosa vuoi fare? Mi piace molto il nome tuo. Grazie. Io ho pensato subito con la prima canzone di Aznavour alla bambina cinese che è stata uccisa. Perché penso che un bambino per la madre sia il centro proprio dell'universo. Ovviamente tutto quello che è successo in generale anche. Certo, grazie, certo. Grazie Sol. Buona domenica. Ciao, Grazia da Roma. Grazia. Buongiorno. Ciao, Grazia, buongiorno. Salve. Tu sei su Facebook, così lo domando, visto che... No, io ho una finestra ma non ci vado mai. Non ci vai mai, così no, sei... Non mi piace, ho provato ma non mi piace. Ecco, va bene, quindi non incorri in quel rischio, hai capito? No. Ecco quello di cui parlavamo. Allora, no. Grazie, cosa vuoi fare? Abbiamo ancora degli indizi per te oppure vuoi rimanere a 500 euro? Non lo so. Ma io ci provo, anche sì. Questa è una intuizione che ha avuto mio marito. La lancio lì ma non saprei neanche perché gli è venuta in mente questa cosa. Susanna Camusso. E facciamocelo spiegare perché l'hai venuto in mente. Infatti, ma non lo so, senti, il primo indizio, dal secondo poi non ci ha dato nessuna. Al primo indizio. Vabbè, è vero, però Bell'Italia, voglio dire, con Fabio Concato che canta Bell'Italia, quindi in qualche modo la Camusso ci sta, e come? Nel senso, infatti, il secondo indizio infatti, potrebbe. Sì, non è, non aiuta, ma non fuorvia. Ecco, diciamo, esatto, esatto, è vero anche questo. Grazie, grazie. Grazie a voi, buongiorno. Ciao. Il bisticcio è impossibile da non fare. Gil da Genova, ciao, bentornato, buon anno. Ciao, buon anno anche a voi. Allora Gilles, due indizi li abbiamo. Abbiamo 500 euro, cosa vuoi fare? Io stavolta con la seconda canzone mi devo ricredere di quello che avevo pensato. Vuoi un terzo indizio? Sì, purtroppo sì. Purtroppo perché andiamo a 300 euro, però sono sempre 300 euro, quindi okay. Mica sono pochi. Un mistero in 24 minuti. 800 24 00 24. Ci sono 300 euro in questo momento. Il premio si è abbassato perché stiamo per ascoltare il terzo indizio. La faccia giusta e tutto quanto il resto ci disse no compagni. Amici, io disapprovo il passo. Manca l'analisi e poi non c'è. malgrado te. È un vecchio successo questo di Antonello Venditti, Bombo non bomba, così si intitola il terzo indizio. Jill, chissà se ti abbiamo aiutato o non l'abbiamo fatto per niente. Il secondo indizio, che com'era il titolo della canzone? Bell'Italia, Bell'Italia. Fabio Concato. Perché sapete che a volte anche nel nome del cantante può nascondersi l'indizio, eh? Niente, non riesco a mettere insieme i pezzi. Ho pensato alla moglie del principe William, che era molto popolare, diciamo, era stata valutata come molto popolare. Ho pensato a lei e poi quella canzone dell'Italia invece è andata. Dobbiamo dire che bisogna spostarsi da un'altra parte. Ecco. Niente, non riesco a dare una soluzione. Tra qualche minuto arriverà, poi ti morderai le mani. Non avevo le mani, avevo pensato anche alla Befana, ma poi non all'inizio, ma poi. Non lo so, ciao Gil, grazie. Grazie, buon anno. Grazie anche a te, ciao. Davvero, Danilo da Vicenza, buona domenica. Sì, buona domenica Stefano. Ciao Danilo, sì. Allora cosa vogliamo fare qua? Io provo a buttare lì un nome. Allora aspetta, facciamo una cosa. Ascoltiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Anche per gli altri ascoltatori, eccoli qua. L'Italia degli impuniti. Ma bomba non bomba, noi arriveremo a Roma. Eccoli qua, erano Sci uguale a lei, Laura Pausini, Bell'Italia, Fabio Concato e Bombo non bomba, Antonello Venditti. Dicevamo, Carlo, Danilo, scusami. No, Danilo. Sì. Sì, sì, no, io da subito pensavo, dopo purtroppo mi sono perso un pezzetto di trasmissione, comunque dico quello che pensavo all'inizio. Sì. Francesca Michielin, la vincitrice di X Factor di Bassano del Grappa. Grazie Danilo, ma tu l'hai visto in 3D o l'hai visto normale? No, l'ho visto normale. Magari non l'hai neanche visto, voglio dire, sì, però sì. Era una curiosità. Ho letto. L'hai visto il microfono che usciva dallo schermo, perché 3D di X Factor, voglio dire. Vabbè, grazie, ciao. Grazie, giornata. Eccolo qui invece Carlo da Pavia. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno. Carlo, cosa facciamo? Sì. Abbiamo ancora degli indizi, se vuoi. Dare subito la risposta. Anche tu, vabbè, sì. Penso alla cancelliera tedesca Merkel. Per vari riferimenti. Sai che non sei l'unico, perché anche sono arrivati anche degli SMS, anche se non valgono, alcuni ascoltatori si divertono a dare risposte via SMS e devo dire che la risposta più gettonata, diciamo così, usando un vecchio termine, un modo di dire che ormai non si può usare più perché i jukebox sono spariti, è proprio lei, la Merkel. Grazie Carlo, ciao, buona giornata. Eccolo qui. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. La daremo sta soluzione. Benedetta! Ciao! Ciao, buongiorno! Buongiorno a te! Mi butto anch'io! Senti, io ho pensato alla Sant'Anché, multata a Cour Major. Lei, la sua ragione, non so, ho pensato a questo. Ci sta, eh? Vabbè. Grazie Benedetta, ciao, buona domenica. Scusate, rido perché a me quell'operazione mi fa sorridere per tutto quello che ha scatenato. Corrado, da mi fa anche arrabbiare, da altri punti di vista, per quello che hanno trovato. Corrado da Vicenza. E auguri a tutti. Ciao auguri. Corrado, grazie. Allora. Io ho pensato al presidente della RAI, la signora Lei. Sì. E rimango di quell'opinione lì. E non la spostiamo, rimaniamo lì. Grazie Corrado. Ecco, pare. Buona domenica. Buona domenica, ciao. E Stefania da Roma, buongiorno. Salve, ciao, buongiorno. Ciao Stefania. Io mi butto. Anche allora, tu. Nessuno che vuole un quarto indizio, tutti che volete stare sui 300 euro, va bene Stefania? Allora, dimmi. Ho pensato alla recente sentenza della Corte di Cassazione che assolve un giovane di Catania per la mancata partecipazione alle nozze. L'annullamento delle nozze a pochi giorni dal matrimonio, ecco. Ecco, è successo e uno può anche decidere, no? Di pensarci, giusto? Infatti. Grazie, grazie Stefania. Ciao, buona domenica. Vi ricordo ancora il numero 800240024 e vi posso dire agli sgoccioli, a pochi minuti dalla soluzione, che nessuno ha ancora indovinato. Quindi abbiamo ancora i 300 euro. Riccardo da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dimmi. No, no, dico, tu ti stavi già buttando, niente, un altro indizio non lo vuoi sentire, e allora buttati Riccardo, cosa ti devo dire? Io mi butto sul gossip. Vai, vai, vai. Allora, la Hunziker, bomba sexy italiana. Eccola, che qua trova il suo amore contro Sardi, penso. Ecco. Mi piace anche l'imprecisione, ci sta, va bene così. Grazie, ecco. Grazie Riccardo, però ti posso anche dire che non è la risposta giusta, guarda, te lo dico, perché siamo quasi in conclusione, quindi posso svelarti che mi dispiace, niente 300 euro, ciao. Bene, ciao, auguri. Anche ciao a te, anche a te tanti. Andrea da Macerata, buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Allora, vogliamo dare una risposta che sia la risposta? Sì. Ci proviamo. Sì, proviamo. Niente indizi neanche per te? No, le problematiche di Equitalia in questo periodo. Allora, bomba, eccetera. Sì, secondo te quindi sarebbero le problematiche di Equitalia, cioè in generale Equitalia è quello che gli sta succedendo. Sì, esatto. Caro Andrea, sai cosa ti devo dire? Che ci sono 300 euro per te, eccoli qua, tanto siamo agli sgoccioli e ci siamo. Ah, bene. Bravo Andrea, pensa che il quarto indizio sarebbe stato soldi, soldi, per cui insomma, forse vi sareste, insomma sì, sono le vicende che hanno coinvolto, non belle, che hanno coinvolto comunque Equitalia, della quale si continua a parlare in questi giorni. Il primo indizio sci uguale a lei, perché insomma lei questa presenza che continua a esserci e della quale si parla tutti i giorni. Bell'Italia, perché fa parte ovviamente della nostra realtà, bomba non bomba per quello che sta accadendo, le minacce che sono arrivate, poi altri indizi così vi eccola qua avrebbero potuto aiutarvi. Andrea, per te 300 euro, complimenti da libreriarizzoli.it, e quindi poi sceglierai i libri che vorrai e regalerai anche, immagino, qualche libro ai tuoi amici. Buona domenica, grazie ancora Andrea, grazie. Ce l'abbiamo fatta, sono molto contento, perché almeno il primo mistero in 24 minuti del 2012 è andato a buon fine. Certo, non sono riuscito a regalarvi 1000 euro, ma 300 euro vanno benissimo, e i 1000 euro tornano ovviamente la settimana prossima. E abbiamo finito anche con il riposo del guerriero, grazie ovviamente a tutti, ai tanti messaggi che oggi sono arrivati, e come vi dicevo cercheremo di riparlare di quelli che sono i gruppi d'acquisto, magari proprio coinvolgendo Salva Danaglio, ne parlerò personalmente con Deborah Rosciani, alla quale passerò i vostri messaggi. Grazie a Giorgio De Luca redazione, l'assistenza di Stefania Tagliaferri, Peter Bescapè in regia, e a tutti voi buona domenica, ci sentiamo domenica prossima alle 10 puntuali con il riposo del guerriero. Buona settimana da Stefano Gallarini.